Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. In and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream been chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus. Buongiorno e ben ritrovati. Questa è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Oggi parleremo di coronavirus e virus letali che esplodono negli allevamenti intensivi, del nuovo rapporto Eurispes, vegani e vegetariani sono in aumento in Italia, ma nel frattempo il Ministero della Salute scoraggia le scelte alimentari vegane e vegetariane. È finita la stagione della caccia, è tempo di bilanci. Parleremo anche di attivisti famosi e meno famosi impegnati nella lotta per i diritti degli animali e dell'ambiente. E poi di altruismo, che non è un atteggiamento appartenente soltanto agli umani, e i pappagalli ce l'hanno dimostrato. Il tutto come sempre verrà squisitamente condito dalla ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni e accompagnato da un'elegante e ricercata scaletta musicale curata dal nostro geniale Giuseppe Coco. Una puntata come sempre ricca di notizie e di spunti di riflessione. State perciò ancora con noi per i prossimi 30 minuti. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Continua la psicosi da coronavirus in tutto il mondo, con oltre 20.000 contagi e purtroppo quasi 500 vittime umane. Mentre in Italia l'Università di Padova ha appena sviluppato il nuovo test europeo per la diagnosi, uno dei primi in Europa che fornisce una prognosi in tempi molto rapidi e che riconosce la presenza del virus anche in persone asintomatiche. Nella speranza che l'allarme rientri presto e il virus venga definitivamente debellato, resta però importante ricordarsi e soprattutto riflettere sul perché questi tipi di virus ciclicamente esplodono. Come non ricordarsi infatti della SARS, la sindrome respiratoria acuta grave, o della BSE, o dell'influenza aviaria, o ancora dell'influenza suina. Tutti i virus che hanno origine dagli allevamenti intensivi, a causa quasi sempre delle pessime condizioni in cui gli animali sono costretti a vivere, ammassati in ambienti poco salubri, sporchi, maltrattati, sovraccaricati di antibiotici e farmaci. Margherita D'Amico, sul blog Il richiamo della foresta, ha di recente pubblicato un articolo dal titolo I virus che vengono dalla crudeltà degli animali. Dopo la SARS, scrive D'Amico, apparsa la prima volta nel novembre 2002 nella provincia di Guangdong e seguita alla fine dell'anno seguente da un'epidemia di aviaria, oggi il drammatico coronavirus dissemina morti e paura, ma forse non sufficienti riflessioni. Ed è proprio così, in effetti. Alla nuova comparsa di un nuovo virus si concentrano tutte le energie, giustamente per limitare i danni e quindi le vittime umane. Ma non si ragiona mai per davvero su come evitare di arrivare alla comparsa di un nuovo virus, letale per umani, ma naturalmente anche per gli animali. Perché questo comporterebbe rivedere seriamente l'intero sistema di produzione alimentare che ad oggi passa massicciamente per l'agricoltura e l'allevamento intensivo. Va da sé che per eliminare le continue emergenze sanitarie nel mondo alimentare, come appunto il coronavirus, che nascono dagli allevamenti intensivi di bestiame, è necessario trovare delle alternative. È bene inoltre ricordare che, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la FAO, Nel 2050 la domanda globale di carne dovrebbe aumentare del 70% per nutrire una popolazione di 9,6 miliardi di persone. Com'è possibile continuare a illudersi di poter sostenere questo ritmo di produzione del cibo a queste condizioni? Si continua quindi a ignorare il problema e a livello economico e politico non si vede l'ombra di una proposta concreta. Le uniche risposte sembrano arrivare al momento solo dalle aziende che, su pressione dei consumatori, propongono prodotti che di certo da soli non sono in grado di stravolgere l'intero sistema di produzione agroalimentare. Basti pensare ad esempio alle aziende che stanno lavorando a delle alternative alla carne, come la carne vegetale detta anche sintetica. L'idea, se in parte può essere interessante, è quella di traghettare i consumatori verso nuove abitudini alimentari più rispettose dell'ambiente e degli animali e di contribuire a creare una maggiore consapevolezza, ma dall'altro, naturalmente, si aprirà la strada all'ennesimo business, così che tutto cambi affinché nulla cambi davvero. Parliamo ancora di cibo, in particolare delle abitudini a tavola degli italiani. Il 22esimo rapporto Eurispes conferma la tendenza che vede gli italiani sempre più attenti e sensibili verso gli animali, con una crescente quota delle persone che scelgono l'alimentazione vegetale e della presenza dei pet nelle case. È vegetariano il 6,7% degli italiani. Il 2,2% dichiara invece di essere vegano. Parliamo quindi di un 8,9% della popolazione, con un aumento dell'1,8% rispetto all'anno precedente. Tra le motivazioni alla base della scelta, soprattutto la salute, il benessere, con il 23,2%, e l'amore e il rispetto nei confronti del mondo animale, con il 22,2%. Con questi dati e con una percentuale che sfiora un italiano su 10, oltre 5,3 milioni di italiani, la Lega Antivivisezione, si legge in una nota, si chiede come sia possibile che proprio in questi giorni la proposta delle nuove linee di indirizzo nazionale per la ristorazione del Ministero della Salute vadano di fatto a scoraggiare le scelte alimentari vegane e vegetariane, introducendo l'obbligo di certificazione medica per poter avere un pasto in una mensa scolastica, in un ospedale o in un ricovero per anziani. A questo proposito sosteniamo, rilanciamo anche noi della redazione di Restiamo Animali, l'appello al Ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo una rettifica del documento in via di approvazione e al Ministero dell'Ambiente perché non assecondi il clamoroso autogol sugli effetti di questa controffensiva anti-vegani e anti-vegetariani. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I sing you, sing you, sing you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. Poco fa abbiamo parlato dell'impatto degli allevamenti intensivi sulla salute umana. Abbiamo accennato all'insostenibilità ambientale che questi hanno attualmente sul pianeta e che continueranno ad avere. E abbiamo accennato alle scelte alimentari degli individui a tavola. Tuttavia, questo è stato anche oggetto, ancora una volta, di una denuncia che arriva dal famoso attore e attivista per i diritti degli animali Joaquin Phoenix. Abbiamo una responsabilità personale, dobbiamo agire in questo momento, ha dichiarato. E un modo per mitigare i cambiamenti climatici è regolando i nostri consumi e scegliendo un'alimentazione a base vegetale. L'attore, a poche ore dalla cerimonia di assegnazione dei premi BAFTA a Londra, tra i protagonisti della serata per il suo ruolo in Joker, ha preso parte ad una manifestazione animalista sul Tower Bridge. Assieme agli attivisti di Animal Equality ha srotolato uno striscione contro gli allevamenti intensivi. A volte sento che non si parla abbastanza di tutto questo, ha spiegato l'attore. Quindi voglio incoraggiare le persone a informarsi di più su come mangiare a base vegetale e come fare la differenza per avere un impatto su questa vera e propria emergenza climatica. Ci sono purtroppo attivisti ambientalisti o animalisti meno fortunati di Joaquin Phoenix e di cui tra l'altro se ne parla ingiustamente molto meno. Il corpo senza vita di Homero Gomez, 50 anni, attivista messicano impegnato nella difesa dell'ambiente e in particolare delle farfalle, è stato ritrovato in un pozzo poco più di 2 settimane dopo la denuncia della sua scomparsa. Homero era particolarmente impegnato nella tutela delle farfalle monarca, le farfalle migranti del Nord America con le ali arancioni punteggiate di nero. Dopo la sua scomparsa si erano mobilitati circa 200 volontari e la scorsa settimana erano stati interrogati anche esponenti delle forze dell'ordine. Secondo gruppi locali impegnati nella difesa dei diritti umani, Gomez aveva subito minacce a causa della sua lotta contro il contrabbando di legname. Homero era anche responsabile di un'area protetta coperta dalle foreste di pini e abeti dove le farfalle monarca vanno in letargo d'inverno, prima di migrare verso gli Stati Uniti e il Canada. Ci auguriamo che la morte di Homero non sia stata vana e che il suo testimone venga raccolto e le sue battaglie continueranno ancora più vigorose. Restiamo all'ombra del fashion. Gli Oscar della musica sono andati a Billie Eilish come miglior artista, miglior album, miglior esordiente, miglior tutto, eccetera, eccetera, vegana. E probabilmente gli Oscar andranno al film Joker con il nostro Phoenix di cui si è parlato in questa puntata. Un film molto toccante con una colonna sonora veramente molto suggestiva. E da questo colonna sonora sentiamo il brano più toccante degli altri, ovvero Bathroom Dance per violoncello solo, scritto e eseguito da un'artista nordica, islandese, che si chiama Hildur Guðnadóttir. Ci siamo finalmente lasciati gennaio alle spalle, finalmente perché questo significa basta caccia, almeno fino a settembre. Ma come ogni anno la stagione venatoria, i suoi circa 500.000 cacciatori nazionali lasciano dietro di sé una scia di terrore, sangue e morte. Secondo il dossier pubblicato dall'Associazione Vittime della Caccia, la stagione venatoria 2019-2020 sono ben 94 le vittime umane, tra cui 27 morti e 67 feriti, di cui 20 morti in ambito venatorio e 7 in ambito extravenatorio. Ogni anno la caccia causa la morte di milioni di animali, il ferimento, l'uccisione di decine di persone, l'alterazione degli equilibri ecologici. Diversi studi, si legge in una nota della Lega Antivivisezione, confermano che la caccia non può essere considerata uno strumento per ridurre i danni all'agricoltura, tuttavia continua a essere consentita e addirittura promossa da politici compiacenti che, nel migliore dei casi, sono del tutto ignoranti in materia, mentre spesso vedono nei cacciatori un bacino di voti dove attingere per i loro interessi. I'll drive through the mountains, the crumbling west. I'll sing like the whale. Before man was a pest, radio transistor, my friend by my side. I'll drive to the ocean I'll drive. We stand. Sul sito notiziescientifiche.it e su altre testate online ci siamo imbattuti qualche giorno fa in un articolo che spiegava quasi con una certa sorpresa, meraviglia, il sentimento dell'altruismo in una particolare specie di pappagalli. Secondo i ricercatori dell'Istituto Max Planck per l'ornitologia in Germania, con uno studio apparso su Current Biology, i pappagalli, almeno quelli grigi africani, possono essere molto altruisti nei confronti dei membri della propria specie, anche in quelle situazioni in cui essere altruisti non porterebbe loro alcun vantaggio, dimostrando così per la prima volta che anche gli uccelli possono avere un comportamento prosociale pur non ottenendo alcun beneficio per se stessi. Il test ha dimostrato come il primo pappagallo, almeno in 7 casi su 8, faceva in modo che anche il pappagallo vicino potesse avere una sua ricompensa, anche se questo non sembrava fornirgli alcun vantaggio, almeno nel breve termine. Questo potrebbe essere considerato un comportamento molto utile in natura perché aiuta a far propagare la specie, ma fino ad ora un comportamento prosociale di questo livello si era visto, oltre che nell'uomo, solo nelle scimmie, e questo studio mostra quindi che si è evoluto indipendentemente anche negli uccelli. E a proposito di questo esperimento, e più in generale, su alcuni studi legati all'analisi del comportamento animale, sentiamo l'interessante riflessione di Francesco De Giorgio, biologo specializzato nella cognizione animale, che cura ormai da qualche tempo per Restiamo Animali una rubrica dedicata all'animalità. Buona animalità a tutte e a tutti. Ed ecco che la scienza, l'etologia, lo studio del comportamento animale, ci sbatte in faccia una nuova scoperta sull'altruismo animale, sull'empatia e sui comportamenti morali negli animali. E ci dicono che una specie di pappagalli, i pappagalli cenerini in particolare, hanno mostrato di aiutarsi l'un l'altro per ottenere premi in cibo. Bene, così ora siamo tutti più contenti. E tu non sei soddisfatto, Francesco? No, direi ampiamente di no, proprio per una serie di motivi, guarda un po', collegati all'etologia, ma non solo. Fino a qualche anno fa e ancora oggi c'era la tendenza a misurare, paragonare e classificare l'intelligenza animale sempre mettendo l'umano come misura e vertice a cui si cercava di far tendere ogni altra specie e di dimostrare che comunque ci sono animali più intelligenti di altri, designandoli con la tipica etichetta antropomorfica intelligenti quasi come l'uomo. Ora, invece, la moda dello studio del comportamento animale è diventata la misurazione moralistica delle abilità morali degli animali, cioè di quanto alcune specie sanno esprimere facoltà da buon samaritano quasi come l'uomo, in una salsa mista tra scienza, religione e filosofia morale. L'osservazione in natura ci dice invece ormai da tempo immemore che le specie sociali possiedono comportamenti affiliativi, che è anche una cosa logica da pensare. Ma no, non siamo contenti, dobbiamo trascinare animali in laboratorio, in ambienti deprivati di tragica behavioristica e skinneriana memoria, anche lì dove rivestiti da cognitivismo, addestrarli con premi in cibo, invece che con le scosse elettriche perché i premi fanno il ricercatore più buono, quindi già creando una distorsione sia nei comportamenti sia nei pensieri, sia nell'attitudine a porre spontanee domande al mondo. Tutto questo per provarlo scientificamente. Le riprese video di questi test empatici sui pappagalli cenerini, a guardarli bene, levandoci il romanticismo della cosa, mostrano espressioni empatiche automatizzate. Gli uccelli, quegli uccelli, isolati in gabbie prive di variabili esterne, esprimono comportamenti, anche quelli cosiddetti morali, quelli da buon samaritano che piacciono tanto, in una modalità ripetitiva, macchinomorfa, schematica, robotica, ben diversamente da quello che accade in natura, dove regnano le possibilità più che le ripetitività, dove la soggettività è più espressa, più valorizzata, dove ogni pappagallo si esprime in una sua propria modalità di vita e pensiero. Inoltre, questi studi hanno visto che altre specie di pappagalli sono invece più cattivi, meno altruistici, perché messi nelle stesse condizioni di laboratorio non esprimerebbero lo stesso comportamento. Quindi, messi giù, via, nella scala verticistica che pone sempre gli uomini, come loro chiamano gli animali umani, ai vertici massimi non solo dell'intelligenza, ma anche della moralità, con altre specie animali che tentano affannosamente di dimostrare di essere bravi e morali quasi come gli umani. E cos'è questa se non, più che una dimostrazione di scienza ed etologia, una dimostrazione di antropomorfismo? Cioè quello che è lo spauracchio di gran parte dei ricercatori, cioè la paura di essere accusati di umanizzare gli animali, diventa culturalmente la loro chiave di lettura e interpretazione del comportamento animale, accettata scientificamente in quanto condotta però con metodo preciso. Il mondo antispecista si solleva giustamente contro le sperimentazioni, contro la vivisezione, contro la detenzione degli animali in condizioni di deprivazione in laboratorio. Sarebbe buona cosa anche sollevarsi contro la vivisezione e mortificazione dell'animalità e chiedere un'etologia antispecista. Che dire allora? Dai, ci si sente, ci si vede e ci si acchiappa in giro tra una viva animalità e l'altra. A prestissimo! Jumping out on the grass, don't you wanna touch a cloud? You need something from up high, cause your pride is so dumb. Little stupid things that you've done, who knows it's in your head. Always talking about your privacy in life, and now you wanna hide your, and now you wanna hide your. Per questa puntata la ricetta della settimana curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni si è ispirata proprio ai pappagalli. Sentiamo. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. ricchi di vitamine, ferro e magnesio, i semi di girasole sono uno degli alimenti che arricchiscono la dieta dei pappagalli. E chiamali bischeri, si direbbe a Firenze, perché oltre a quelle già elencate sono conosciuti anche per le loro proprietà antitumorali. Oggi vi propongo di portare sulle vostre tavole i semi di girasole sotto forma di caciotta. Gli ingredienti per 4 persone per una caciottina di girasole sono 100 g di semi di girasole, 150 g di acqua, 40 g di amido di mais, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, 2 cucchiai di olio extravergine, 2 cucchiai di succo di limone, sale, spezie a piacere. Tritate i semi di girasole aggiungendo l'acqua poco alla volta fino ad ottenere una bella crema liscia. Aggiungete il succo di limone e l'olio e continuate a frullare. Aggiustate di sale e unite il lievito alimentare a scaglie e, se lo desiderate, aromatizzate con delle spezie o erbe aromatiche: cumino, rosmarino, salvia, aglio in polvere, fiero greco, eccetera. Infine unite l'amido di mais e mettete il tutto sul fuoco, mescolando con un mestolo fino a quando il composto inizierà ad addensarsi. A questo punto togliete dal fuoco e versate in un contenitore di vetro leggermente oleato oppure in una fuscella per formaggio. Lasciate raffreddare, quindi fate riposare almeno 5 o 6 ore in frigorifero prima di consumare. Settimana. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 523 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.